Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, ultima puntata prima del Natale di Focus Economia, puntata speciale del programma, puntata della vigilia. Come promesso e ampiamente annunciato, ci occuperemo di previsioni economiche, in questo caso soprattutto su crescita economica e andamento dei mercati azionari. Poi il 31 dicembre vi sarà una puntata invece sulla tendenza, su quello che saranno i protagonisti del 2016 e i protagonisti che sono stati nel 2015. Abbiamo scelto un po' come fa il Time, modestamente, per la sua copertina, non tanto Angela Merkel, ma la Germania, e secondo molti osservatori è stata sicuramente protagonista a livello europeo del 2015 e lo sarà in una tendenza un po' egemonica, o a pensare che ciò che è bene per la Germania sia bene anche per l'Europa, anche e soprattutto nel 2016. Ma adesso concentriamoci sulle previsioni, sull'anno che da un punto di vista borsistico e non solo si sta chiudendo. Lo facciamo, lo dico subito, come sempre, con due ospiti, l'acqua e l'olio, il diavolo e l'acqua santa, non lo so, non voglio attribuire a nessuno dei due nel bene e nel male, ma sono sicuramente due ospiti molto diversi. Uno è un banchiere di investimenti e fa investimenti sulle società, li fa attraverso una società quotata in borsa, compra partecipazioni in società che ritiene che possano crescere, quindi fa, diciamo, investimenti in maniera classica, se vogliamo. L'altra invece è la nostra mitica astrologa. Allora, prima di tutto e prima di salutare gli ospiti, iniziamo però a dare alcune cifre, partendo dagli ultimi giorni. Il Financial Times due giorni fa ha ricordato come il 2015 ha segnato, quanto a fusioni e acquisizioni a livello mondiale, un record, sopra anche il picco toccato l'anno prima dell'esplosione della crisi, il 2007. Allora furono 4.300 miliardi di dollari ottenuti da fusioni e acquisizioni come risultato di queste operazioni. Quest'anno saranno 4.600, e quindi il livello più alto da tutti i tempi. Il prossimo anno i timori maggiori sono legati, riporta il Financial Times, all'instabilità geopolitica e alle tensioni sul mercato del debito. Ma partiamo dai fatti: è stato un anno in cui, un po' perché si comprava anche a prezzi buoni, un po' perché c'era tanta liquidità, quella immessa dalla Federal Reserve negli Stati Uniti in questi anni e quella che da poco ha iniziato a immettere anche la Banca Centrale Europea. Poi vedremo le previsioni delle banche d'affari sul 2016, però l'altro dato di questi giorni, di ieri, è anzi dell'altro ieri, un'economia a stelle strisce che cresce nel secondo trimestre e soprattutto nel terzo al 2%, grazie ai consumi saliti del 3%, e anche l'ultimo trimestre a questo punto dovrebbe essere in linea con gli ultimi trimestri americani. La crescita si collocherà intorno al 2,3%. Partiamo sempre in questo viaggio un po' a gambero dalle ultime notizie, dall'annuncio più importante, come l'abbiamo chiamato, quello dello scorso 16 dicembre, quando la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, come ampiamente atteso ma non certo, chiude anche simbolicamente l'epoca della crisi scoppiata nel 2008, quando i tassi toccarono un livello mai più mosso, il 16 dicembre del 2008. Da allora i tassi americani, il costo del denaro è rimasto inchiodato tra lo 0 e lo 0,25%, per la prima volta si opera sui tassi e per la prima volta dal 2006 lo si fa rialzando il costo del denaro. Lo 0,25%, la Fed ha fatto capire però che molto gradualmente procederà e porterà i tassi fino al 3%, ma nell'arco dei prossimi tre anni. Gli analisti si attendono che nel 2016 i tassi americani possano arrivare all'1,4% attraverso quattro mini ritocchi. Good afternoon. Earlier today, the Federal Open Market Committee. Il Federal Open Market Committee ha deciso di alzare il target di riferimento dei tassi dei fondi federali di un quarto di punto percentuale, portandoli dallo 0,25% allo 0,50%. Questa azione segna la fine di una fase straordinaria durata 7 anni, fase durante la quale i tassi di interesse sono rimasti vicini allo zero per supportare la ripresa dell'economia dalla peggiore crisi finanziaria fin dalla Grande Depressione. È stato anche riconosciuto il considerevole progresso fatto per ripristinare il mercato del lavoro, la crescita dei redditi e per migliorare il disagio economico degli americani. L'azione riflette la fiducia della Federal Reserve nel progressivo rafforzarsi dell'economia. Così appunto Janet Yellen, che poi ha detto non esageriamo l'importanza del rialzo dei tassi, ma non sono preoccupata per una nuova recessione americana, sebbene la ripresa sia in atto ma non si sia ancora completata. Pochi giorni prima, e mi riferisco al 3 dicembre, vi era stata infatti invece un'altra conferenza stampa, un altro annuncio che aveva un po' deluso i mercati, le borse avevano perso in Europa. C'è un Mario Draghi che era stato, secondo chi se lo attendeva, più aggressivo, un po' più prudente, lasciando non tanto i tassi di interesse al minimo storico dello 0,05%, riducendo i tassi sui depositi dello 0,30%, cioè quanto le banche che vogliono depositare i soldi durante la notte, le BCE, ci perdono dei soldi, questo per avere un elemento di dissuasione rispetto all'utilizzare i soldi che le banche hanno in altro modo. E però Draghi aveva anche annunciato che l'acquisto delle obbligazioni o di titoli di Stato attraverso il quantitative easing continuerà oltre il settembre del 2016, andrà fino al marzo del 2017 e comprenderà anche i titoli di debito, quindi BOT, BTP, insomma, emessi dagli enti locali. Based on our regular economic and monetary analysis, we today conducted. Sulla base della nostra regolare analisi economica e monetaria, oggi abbiamo condotto una valutazione generale dei fattori che limitano il ritorno dell'inflazione a un livello al di sotto, ma vicino al 2% nel medio termine. Come risultato abbiamo preso una serie di decisioni. Innanzitutto abbiamo tagliato i tassi dei depositi di 10 punti base a meno 0,30% dal precedente meno 0,20%. Secondo, riguardo le misure straordinarie di politica monetaria, abbiamo deciso di prolungare il programma di acquisti di titoli fino a marzo 2017 o oltre, se necessario. E in ogni caso, fino a che non osserviamo un aggiustamento sostenibile del ritmo dell'inflazione e in linea con l'obiettivo di un livello vicino ma sotto il 2% nel medio termine. Un'ulteriore decisione è quella di reinvestire i pagamenti sui titoli acquistati nell'ambito del programma di acquisti alla loro scadenza per il tempo necessario. Abbiamo anche deciso di includere nel programma di acquisto del settore pubblico strumenti di debito denominati in euro, emessi da amministrazioni regionali e locali dell'area dell'euro, nella lista delle attività idonee per gli acquisti regolari da parte delle rispettive banche centrali nazionali. No, sulle decisioni prese oggi non c'è stata unanimità, ma una maggioranza molto ampia si è espressa a favore del pacchetto. Una larga maggioranza. Penso che queste misure richiedano tempo per essere pienamente apprezzate. I think these measures need time to be fully appreciated and we'll see. Allora, iniziamo con gli ospiti e chiaramente da alcuni di voi vedo che hanno già riconosciuto il primo ospite dalla descrizione che ho fatto, Giovanni Tamburi, presidente e amministratore delegato di Tamburi Investment Partners, buonasera. Buonasera. Appunto, lei ha un investment bank quotata a Piazza Affari e compra titoli e gruppi, non solo, che ritiene ampia crescita. Lei è dentro Digital Magix, Prismian, Amplifon, Datalogic, Roche Boboise ed altri. È entrato come socio in Moncler, tra l'altro, e poi è entrato sta per entrare, o è già entrato, mi corregga lei se sbaglio, in Italy. Avete anche una partecipazione in Italy, 20%, il 20%, che poi dovrà quotarsi in borsa. Allora, prima di arrivare ai settori, tamburi su cui lei è, diciamo, per lei sono pane quotidiano, restiamo un attimo sullo scenario. Ho fatto ascoltare i due passaggi, quello della Yen probabilmente più epocale ancora di quello di Mario Draghi, le sue prospettive per il 2016 in termini di crescita economica, tassi di interesse e Stati Uniti e Europa. La crescita nell'anno prossimo sarà buona, sarà tra il 3 e il 4% a livello mondiale, per cui continua il flusso positivo dei mercati internazionali, dell'economia a livello internazionale. La crescita, perlomeno per quello che leggo, dovrebbe essere leggermente migliore, più vivace in Europa che non negli Stati Uniti, invertendo una tendenza che invece da qualche anno dava un discorso contrapposto. Per quanto riguarda i tassi, siamo certamente in un momento in cui i tassi stanno leggerissimamente salendo e per cui sia in Europa che negli Stati Uniti e anche in Giappone e per quello che si capisce in Cina saliranno nel corso dell'anno prossimo. Molto molto gradualmente, molto in maniera controllata. Il discorso della Yellen è stato molto esplicativo, chiaro, perché loro hanno più paura di far vedere che alzano troppo che non voglia di alzarli troppo. La variabile petrolio, che è l'altra variabile, che è una variabile macroeconomica ma è anche una variabile di investimento, un po' perché i titoli legati al petrolio ne risentono parecchio e un po' perché attorno al mondo del petrolio poi si muovono intere economie. Quest'anno siamo arrivati ai livelli più bassi da 11 anni nel Brent, a $36, non si vedeva un Brent, un petrolio del Mare del Nord, così basso dal 2004. A New York il WTI è sceso sotto i $34 per la prima volta dal 2009. Allora, sappiamo cosa è successo, lo racconto a tutti. Da un lato il braccio di ferro tra i paesi dell'OPEC, un OPEC che ormai sembra quasi non esistere più, comunque non hanno voluto tagliare la produzione perché puntavano a far calare il prezzo del petrolio in modo tale da buttare fuori mercato i piccoli produttori di petrolio americano, shale oil. Secondo la teoria, quel tipo di estrazione, sabbie bituminose e quant'altro, si giustificava solo con un petrolio intorno ai $70 al barile. Questa prima scommessa è stata parzialmente persa, nel senso che alcuni sì hanno dovuto chiudere, ma l'America ha continuato a produrre petrolio attraverso questo sistema e ha raggiunto la quasi autosufficienza sull'approvvigionamento energetico. Nel compenso, cosa è successo? Che oltre a questa scelta politica dell'OPEC di provare a buttare fuori alcuni produttori di petrolio autoctoni americani, c'è stato anche, più si andava avanti nell'anno, l'annuncio sempre più forte di una Cina che ha rallentato, ha una crescita che per la Cina è appena appena accettabile, vicina al 7%, un Brasile che ha confermato una recessione importante quest'anno e anche l'anno prossimo, la Russia che non ha risolto i suoi problemi dovuti in primo luogo all'embargo statunitense ed europeo, e anche un'India che non sta crescendo come dovrebbe, con la conseguenza che la domanda di petrolio è ulteriormente calata e il prezzo è ulteriormente sceso. Ma nonostante ciò l'Arabia Saudita continua con la sua politica, e poi c'è l'ingresso del petrolio iraniano da non sottovalutare, e continua con la sua politica. C'è chi dice che l'OPEC è finito, nel senso che ormai ha trazione saudita, ma il Venezuela non ne può più perché è un paese in ginocchio anche da questo prezzo del petrolio e quant'altro. Detto ciò, è finito complessivamente, tamburi, secondo lei, il super ciclo delle materie prime, e cioè il fatto che in questi anni i paesi emergenti fossero delle idrovore così forti di tutte le materie prime, non solo il petrolio, da tenere i prezzi così alti? Ma sicuramente sì, cioè tutte le materie prime che sono scese, in particolare il petrolio, rimarranno secondo me abbastanza basse per un certo periodo. Quello che è stupefacente, perlomeno per uno come me, è che per 40 anni, dal periodo nel quale io lavoro, mi sono sentito dire che quando saliva il petrolio i mercati scendevano, le aziende andavano in crisi e per cui c'era un problema. Adesso sembra essersi un problema, perlomeno nell'isterismo dei mercati, quando il petrolio scende, per cui c'è qualcosa che non va. Rimanendo alle materie prime in generale, io credo che rimanendo basse aiuteranno il ciclo economico in modo virtuoso, perché aiuteranno le imprese a spendere meno per il costo dei prodotti e per cui ad essere più competitive nei prezzi di vendita. Questo aiuterà gli emergenti, aiuterà i trasformatori, aiuterà un po' tutti quanti. Pensiamo a un sistema come quello italiano o europeo in genere, che produce poco o niente petrolio e che certamente si avvantaggerà di questo fatto di materie prime e soprattutto prodotti energetici ad un prezzo relativamente basso, certamente più basso di quello che nei budget degli ultimi anni abbiamo tutti quanti messo nelle varie società. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi-bobbidi-boo. Ah, questa chiaramente non è lo stacco per tamburi, ma è lo stacco per la mitica Grazia Mirti. Chi è Grazia Mirti? Una delle massime esperte di astrologia finanziaria. Ha pubblicato anche un libro con il Sole 24 Ore, Investire con gli astri. Non penso che sia più in edicola o in libreria, perché è del 99. Imbroccò, quando parli con un astrologo non puoi dire imbroccò, dice, previde la fine del ciclo economico nel 2008, e poi la metterò anche a confronto con le sue previsioni dell'anno scorso sull'Unione Europea, su Renzi, su Russia, su Merkel, su Cameron. Prima di tutto restiamo su questi due temi, però. Mirti, buonasera innanzitutto. Buonasera. Buonasera. Mirti, la Yellen e Draghi, quindi la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea, e poi io non so se il petrolio abbia un segno zodiacale, io penso che sia... Sì, ce l'ha. E come lo scorpione, e quindi nei primi mesi del 2016 tenderà ancora a diminuire. Perché è un brutto anno per lo scorpione nei primi mesi? No, perché c'è Marte che passa in scorpione e quindi avrà una spinta a regredire che si rinnoverà ancora tra giugno e luglio. Ah, quindi fino a luglio un petrolio, diciamo, mi scusi l'ignoranza, ma Marte che passa in scorpione cosa significa? È debilità le quotazioni dello scorpione, naturalmente aiutato dalle idee. No, perché c'è una delle nostre assistenti che tra l'altro è scorpione e guardava con interesse, quindi ho anche un po' di conflitto di interesse. Quindi... No, ma non ha lo stesso valore, il collettivo e l'individuale. In generale, il petrolio e scorpione, da quando Saturno è entrato in scorpione, è sempre diminuito e adesso è ancora in questa fase. Mario Draghi e Janet Yellen invece? Beh, Draghi è una vergine, quindi è veramente molto favorito, perché Giove sta transitando nel segno della Vergine, ci sarà fino a settembre, evento che accade una volta ogni 12 anni e quindi ne trarrà sicuramente beneficio, pur con gli alti e bassi che naturalmente ognuno di noi deve subire. Quindi un buon anno per Draghi, però lei non distingue tra lavoro e affetti come fanno delle volte le previsioni, cioè un buon anno per Draghi ma magari con sua moglie, non nei rapporti con Weidmann e con la Bundesbank, chiedo. Ma io penso che i rapporti con la Bundesbank siano abbastanza più difficili di quelli con la moglie, però non so, bisogna chiedere alla moglie Draghi e a Weidmann, però. Però penso che la signora Draghi non abbia particolari difficoltà. In ogni caso non mi viene in mente di studiarlo nei suoi rapporti amorosi, ecco. No, ecco, quindi è la parte professionale di Draghi. E Janet Yellen, che signora, lo sa lei? Non lo so. Allora andremo a investigare su questo, perché questa... Investigheremo, però le posso dire questo, che una signora meno nota, che si chiama McWhirter, nel 1938 ha detto che l'economia americana funziona in base all'andamento del nodo della luna, e in particolare che raggiunge sempre i massimi, e finora non è mai stata smentita, quando il nodo della luna arriva in Leone. Per cui io le dico già adesso che il nodo della luna arriva attiva in Leone nel marzo 2017, quindi nel 2016 l'economia americana si consolida e poi nel 2017 comincerà ad arrivare ancora molto più in alto. Quindi la signora che lei ha citato, secondo me, ha condotto molto bene le cose, continuerà, però non aumenteranno i tassi se lei avesse ragione, sarebbe anche una bella spinta per il neo presidente americano. Lei lo sapeva questa cosa, tamburi, dell'economia americana, dei cicli lunari? Confesso di no. Ecco, che segno è tamburi? Non avevo. Toro? Sì. Ecco, per chi e per il toro, il fronte investimenti, Mirti, così adesso iniziamo un po' anche a fare del insider trading sulla Tamburi Investment Partner. Prego. Il segno toro, Mirti. Sì, il segno del toro rappresenta le banche, quindi l'inizio del 2016 è pessimo per loro. Poi miglioreranno gradualmente, però purtroppo ci sono ancora delle congiunture in cui salteranno fuori ulteriori cadaveri nel cassetto, quindi bisognerà aspettare un momento. Però Tamburi non è una banca di investimento, vale anche per lui, le dice. Attenzione. Non credo. Perché è buona. Poi arriveremo alle banche. Devo dire che sarà un brutto anno per le banche. Speriamo non troppo peggiore di quello che abbiamo visto su alcune banche. Torno a essere non serio, ma diciamo ortodosso, così si può dire, perché alcuni ritengono che sia molto seria anche l'astrologia. E dopo le informazioni sul traffico vorrei capire un paio di cose, andando a stringere i settori produttivi, perché il quadro economico Tamburi l'ha tracciato, l'abbiamo raccontato anche noi, una crescita in cui l'Europa dovrebbe avere, quanto a incremento della crescita, una spinta in più rispetto agli Stati Uniti, che cresceranno comunque più di noi, un mondo che ha rallentato ma che ha una crescita superiore al 3%. Adesso andiamo sul meteo e poi iniziamo a ragionare con Giovanni Tamburi e con Grazia Mirti dei settori produttivi, che poi significa anche titoli azionari, fermo restando che, come sempre, noi il nome del singolo titolo non lo daremo né adesso, né l'abbiamo mai dato, né lo daremo mai. Meteo. Focus Economia. Di nuovo con Sebastiano Barisoni per questa puntata speciale di Focus Economia. La borsa è chiusa e quindi ci permettiamo di ragionare su quello che è successo. Dopo aver fatto lo scenario macroeconomico, andiamo proprio allo scenario borsistico. In parte era chiaro che la borsa si muove anche sulle attese dei tassi di interesse, quello di cui parlavamo prima, e della crescita dell'economia. Vediamo come sono andate intanto le borse quest'anno. Dato ancora relativamente provvisorio, però da inizio 2015 ormai mancano poche sedute. FTSE MIB più 11%, FTSE All Share più 13,5%, il Dow Jones, quindi il principale indice americano, meno 3,2%, il Nasdaq più 5%, il FTSE 100 meno 8%. Allora Tamburi, la prima cosa che emerge è che sono andate meglio le borse adesso dell'area euro rispetto in generale alle borse non euro, in particolar modo quella americana. Uno potrebbe dire, ma com'è possibile che l'America cresca, abbia ridotto i suoi problemi e quasi eliminato sulla disoccupazione, che è scesa al 5%, il reddito degli americani è cresciuto del 2%, l'inflazione è ancora un po' bassa, intorno all'1%, infatti i tassi aumentano. Aumentano i tassi perché l'economia è solida e la borsa americana fa meno 3,2% e noi, e quest'anno faremo più 0,7% con tutti i problemi che ancora restano sul tappeto, veniamo premiati dagli investimenti azionari? Ma è molto semplice, a parte che l'avevamo detto l'anno scorso trasmissione equivalente, l'avevamo onestamente previsto. Ma è vero, perché ognuno di voi adesso dirò cosa avevate previsto e cosa non. Lei aveva previsto una crescita dell'Europa migliore di quella degli Stati Uniti, prego. Allora, innanzitutto i mercati sappiamo tutti che anticipano i cicli, per cui l'America sappiamo che era cresciuta moltissimo nei due anni precedenti e pertanto ha rallentato la crescita, addirittura gli indici, alcuni indici sono andati in negativo come avete ricordato poco fa. L'Europa che era arrivata più stancamente quando c'è stato il rimbalzone degli Stati Uniti e comunque la fine della crisi anche qui in Europa è arrivata e adesso sta migliorando, è migliorata e tra l'altro le previsioni per l'anno in corso sono di una conferma, perlomeno per quanto mi riguarda, di questo trend dei mercati. Cioè l'Europa nel corso del 2016 dovrebbe andare meglio come indice azionari degli indici azionari degli Stati Uniti. L'euro sul dollaro, voi come ve lo attendete? Perché ha perso quasi l'11%, adesso c'era dopo la Yellen si era un po' ristabilizzato da 1,04, 1,08, 1,09. Lei si attende dei grossi movimenti su questo? Perché anche lì i fatturati delle imprese si fanno in base a dove esportano, ma o in dollari o in euro. Ma allora, grossi non direi, cioè secondo me staremo tra 1 e 1,10. Durante l'anno non sono, come ho sempre detto a queste trasmissioni, minimamente esperto di dollaro, so però che come dice giustamente le imprese sono molto condizionate. Io credo che su tutti i budget delle imprese che io ho visto nel corso dell'anno, la cosa più imprevedibile del 2015 è stato veramente l'effetto del dollaro, perché ci sono aziende che sono avvantaggiate e altre che sono svantaggiate. L'effetto anche del dollaro sul renminbi e per cui sulla Cina, effettivamente le valute cominciano a diventare uno strumento strategico anche perché è sempre meno copribile anche dalle aziende internazionali, per cui credo che il range sia 1-1,10, bisogna stare molto molto attenti però perché si possono prendere delle sberle fortissime sul dollaro. Altro tema che riguarda appunto il rapporto di cambio, io poi vorrei arrivare anche su questo con Grazia Metti, ci dà una previsione complessiva quindi di Milano, lei come si attende che possa, adesso non voglio la percentuale esatta sennò diventa una specie di futures lei tamburi o sostanzialmente investiamo sul tamburi index, ma insomma lei un ordine di grandezza medio in quanto lo immagina? L'indice europeo secondo me quest'anno potrebbe fare tranquillamente un 5-10% di ulteriore incremento, non credo molto di più. La cosa però più importante degli indici dell'anno sarà la volatilità, saranno gli strattoni. Abbiamo visto negli ultimi 15 giorni, secondo me, una sorta di proxy di quello che succederà. Giornate in cui tutti dicono scende il petrolio, ci sono problemi in Cina, c'è un rallentamento in America, meno 3, il giorno dopo, ma non 15 giorni dopo, il giorno dopo più 3,7 per le stesse notizie, scende il petrolio, c'è la Yellen e per cui più 3,7. È veramente difficile. Tra l'altro una cosa che secondo me va ricordato agli ascoltatori, sono sempre più violenti gli effetti di questi ordini computerizzati, perché ormai la massa di liquidità investita sulle borse è talmente enorme che i grandi fondi di investimento sono obbligati ad affidarsi a strumenti automatici, a strumenti la spiego questa, cioè non è che ci sia tanto la scelta dell'operatore che dice vendo a 34, compro a 33, ci sono degli ordini automatici per tutelare appunto anche i grandi fondi di investimento, in cui in automatico quando arriva quella soglia, anche se tu magari hai l'ipotesi che potresti aspettare un altro po', tu vai a vendere o vai a comprare. Questo è il meccanismo a cui faceva riferimento Giovanni Tamburi. Oh, vediamo cosa aveva previsto Grazia Mirti sul fronte azionario, perché le previsioni si fanno per tutti, eh? Allora, lo scorso, era un anno fa esatto, 24 dicembre 2014, leggo testualmente, c'era un aspetto particolare, Nettuno impiega 160 anni per fare tutto il giro dello zodiaco, da un paio d'anni nei pesci, dove era tra il 1848 e il 1861. All'epoca fu costruita l'Unità d'Italia, ci potrebbe essere una nuova rinascita. L'uscita di Saturno dallo Scorpione era un sollievo per la parte economica e nuove opportunità. Punti dolenti in marzo e l'estate. Nel complesso andava un po' meglio. Allora, le previsioni sui mercati in generale, non voglio i singoli settori, e anche sull'euro-dollaro, Mirti. Ecco, io volevo intanto dire che la signora Yellen è nata nel segno del leone, 13 agosto, e quindi ha usufruito di un bellissimo passaggio di Giove negli ultimi mesi, per cui vive abbastanza di rendita. Ma lei, mi scusi, è riuscita a fare anche in questi minuti l'ascendente? No, perché... No, l'ascendente no, perché non si conosce per adesso l'ora di nascita. Abbiamo dei database internazionali, proprio gli orari documentati, per cui per il momento non c'è, però per il prossimo anno mi documenterò. E per quanto riguarda invece le quotazioni azionarie, sono d'accordo col mio illustre collega, dico però che ci sono dei punti delicati che possono essere il primo di marzo, giugno e luglio, e poi avremo in ottobre la solita crisi della Grecia. Un'altra volta, a ottobre. A ottobre di nuovo la Grecia? Sì. Ah, sì, bene, sì. No, ci prepariamo a ottobre. Visto che ho ancora lei, iniziamo anche con i nomi, perché questa cosa ho più difficoltà a chiedere a Tamburi, perché lei l'ha chiamato collega. In effetti, chi investe fa tante previsioni, delle volte anche in maniera criptica. Però lei ci aveva detto l'anno scorso che per Renzi, Renzi è un capricorno, e continuerà la sua buona, buon periodo, un po' di difficoltà in estate. A me sembra che le difficoltà più grosse Renzi le abbia avute adesso, novembre. Sì, però se mi permette, il ministro Boschi è nata nel segno dell'acquario, quindi le difficoltà sono sorte sicuramente in estate, poi noi le abbiamo sapute adesso. Però secondo me il panorama era già pronto da tempo. Angela Merkel ha detto non finirà bene l'anno, punti deboli ad aprile e luglio. Ora è vero è vero che lei con la Grecia ha avuto un punto debole, però poi a luglio-agosto ha fatto questa mossa di accoglienza dei migranti, le valsa pure la copertina di Time. Diciamo che questa non l'avete imbroccata, non è che tutti possono imbroccare tutto, neanche l'astrologia. No, ma non penso che lei sia così garrula. Sì, ha avuto la copertina, ma la situazione non è così semplice e penso che anche nel 2016 avrà le sue gatte da pelare e belle grandi. E anche la Germania in quanto tale non ha ancora finito di svelarci questi suoi segreti abbastanza... Ma la Merkel che segno è, mi scusi Mirti? Cancro. Cancro come gli Stati Uniti. E la Germania... pure la Germania è considerata Ariete. Cosa poteva essere la Germania? Molti, a cominciare da Bismarck, moltissimi personaggi importanti della Germania sono stati Ariete. L'Italia, ci chiedono che segno è? Secondo Claudio Tolomera nel Leone, e ancora adesso nel Leone. Roma è considerata assolutamente leonina. Ecco, leonina, stiamo attenti, perché su Roma c'è anche il Vaticano, leonina. Andiamo avanti. Cameron bilancia, l'anno scorso lei ci ha detto che Cameron sarebbe stato in grande difficoltà. Sì, meno di altri leader, nel senso che ha ancora questo grossissimo tema, su cui è molto ambiguo, un po' ballerino, di un'eventuale uscita della Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa. L'anno prossimo Cameron l'anno prossimo, fino direi alla fine della primavera, ancora numerosi alti e bassi, poi dovrebbe andare benissimo, perché da settembre Giove nella bilancia, quindi sia lui che Putin, che a sua volta ha uno sterminio di pianeti in bilancia, dovrebbero poi finalmente... Perché Putin, che segno è Putin? Bilancia, con bilancia. Uno stellium, cioè molti pianeti nella bilancia. Appena entrata la luna nera in bilancia è caduto l'aereo del Sinai, poi c'è stata questa vicenda con il pesci Erdogan, che mi sembra abbastanza delicata. Perché Erdogan è un pesce? Sì. Qualcuno può dire in barile, nel senso che per come, sì, si muove, barile, esattamente, per come si muove con l'ISIS. Vabbè, e la Russia, quindi lei la interpreta con Putin sostanzialmente, o anche la Russia ha un suo segno zodiacale? La Russia ha un suo segno zodiacale, che sono i pesci, che riguarda l'Oriente comunque in genere. E Putin in ogni caso va incontro a delle difficoltà fino all'estate, assolutamente. Che mi manca? Ah sì, mi manca l'Unione Europea nel suo complesso, che l'Italia, ma l'Italia non me l'ha ancora detta in generale, allora mi manca l'Italia e l'Unione Europea. L'anno scorso lei previde per l'Unione Europea che il peggio fosse passato, e c'era ancora molta incertezza. Per inciso, lei l'anno scorso ci disse che per la Russia sarebbe andata male, inizia anno faticoso, non andrà meglio nel resto dell'anno, a marzo molte difficoltà. Sì, le difficoltà le ha avute anche qui più a settembre Putin. Comunque andiamo avanti con l'Italia e l'Europa. Allora, l'Italia secondo me non è in una fase facile, però lentamente ma costantemente andrà migliorando, e anche l'Europa, come ha detto giustamente Tamburi, pian piano andrà oltre, e quindi secondo me dovrebbero essere abbastanza consolatorie le previsioni positive, cioè dovrebbe andare meglio la situazione. La borsa italiana, che poi devo tornare a tamburi. Lei, la borsa che... italiana, che è nata nel segno dell'acquario, direi che non ha, soffre di particolari difficoltà, salvo i primi mesi dell'anno e poi il giugno e luglio, poi il resto dovrebbe essere abbastanza stabile. Mirti, è diventata renziana, c'è l'astrologia renziana, la narrazione astrologica renziana, tutto va bene l'anno prossimo. No, che... no, non è vero, le ho appena detto che si fermava la Grecia a ottobre e poi anche la Spagna non va particolarmente bene, perché la Spagna è Sagittario, quindi è entrato Saturno, avrà dei nodi che arrivano al pettine, quindi bisognerà... Mi scusi, perché è un brutto anno per il Sagittario l'anno prossimo? Non è un brutto anno, è un anno, dicono i vecchi testi, che se si è lavorato bene, allora si hanno dei compensi e dei riconoscimenti, però purtroppo non sembra che in Spagna sia stato fatto tutto quello che ma entra in, Saturno il Sagittario, capito bene? No, è Saturno che è entrato già nel Sagittario dallo scorso settembre, ci sta 2 anni e mezzo come due anni segno. E mezzo, ma non è una bella cosa questa? Ma non è una brutta cosa, perché Saturno ci spinge a tagliare i rami secchi e a eliminare le cose che non servono e quindi a essere un pochino più calmi. Siccome il Sagittario cavalca sempre nella brughiera, dovrà essere un pochino più avveduto e riflessivo, ma mi sembra una cosa positiva. Ecco, come avranno capito gli ascoltatori, il sottoscritto è Sagittario, traffico. Focus Economia. Ancora perplesso da sto Saturno per 2 anni e mezzo, tagliare i rami secchi, più calma, cos'è che ha detto? Grazie a me, io mi rivolgo a Giovanni Tamburi, io non so se siano più certe le vostre previsioni, quelle dell'astrologia, nacque così questo gioco, per chi se lo fosse dimenticato, nacque nel 2009, perché guardando le previsioni di Goldman Sachs e di grandi banche d'affari su quello che sarebbe successo e poi capitò l'esatto opposto, dicemmo beh, a sto punto usiamo anche quelle astrologiche. In America c'è il monkey business, si fa scegliere una scimmia quali titoli investire, delle volte batte il gestore e l'indice, noi lo proviamo a fare con l'astrologia. Lo dico per inciso perché vedo che alcuni si sorprendono, ma che avete oggi che parlate di astri, di Sagittari, di Saturno. Giovanni Tamburi, l'ho già chiesto, che segno è Tamburi? È Bilancia? Toro. No, era già Toro l'anno scorso. Beh, non è che uno cambia segno. Allora, se parliamo del Tamburi uomo, è un'informazione che mi sfugge. Se parliamo del Tamburi, diciamo, segno zodiacale, era Toro l'anno scorso e sarà Toro anche l'anno prossimo. Che anno è per il Toro? Così mettiamo anche un po' di pepe, che è troppo ottimista Tamburi, prego. È un anno faticoso tra gennaio e febbraio e tra giugno e luglio, però per il resto è molto vantaggioso, specialmente perché ha eliminato parecchi ostacoli e usufruisce anche dell'aiuto di Giove nel segno della Vergine, che è amico del Toro, quindi farà sicuramente meglio dell'anno scorso. Piove sul bagnato, meglio il Toro del Sagittario, no? L'anno prossimo. Beh, ma poveretti, hanno anche ragione, hanno dovuto faticare molto i nati in Toro. Ah sì? Quindi a me sembra che Tamburi vada sempre bene. Comunque, vabbè, quindi lui praticamente si avvantaggerà nel momento in cui la Grecia tornerà in crisi, ho capito bene? Perché se dice sì. Magari... proprio così. Ok. Allora, Tamburi, fermo restando che la sua fortuna coinciderà con di nuovo la crisi della Grecia, secondo l'astrologia, quindi ci avvisi quando le cose iniziano ad andare particolarmente bene, che avvisiamo anche alcuni amici ad Atene. Mi dice in realtà le previsioni sui singoli settori, perché adesso andiamo nell'ultima parte sul concreto, e cioè quali settori lei investirebbe e con che caratteristiche, visto che lei da sempre è un teorico di quello che si chiama stock picking, cioè andare a scegliere le singole imprese. Prego. Ma io quest'anno starei ancora di più sui settori industriali, che certamente beneficeranno di questo miglioramento dell'economia reale, continuerei a non stare sulle banche, perché le banche sono enormemente volatili, basta vedere gli andamenti che hanno avuto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, prima degli aumenti di capitale, dopo gli aumenti di capitale, basta una voce che crolla tutto, anche se non dovrebbe. L'anno scorso nell'ambito delle banche facemmo la divisione fra banche pure e risparmio gestito, o comunque titoli di finanza un po' particolare, e avevo detto che probabilmente la finanza, risparmio gestito eccetera, rispetto alle banche sarebbe andata meglio, e in effetti è andata piuttosto bene. Quest'anno starei cauto su tutti e due i mondi, per cui sia sulle banche pure sia sulle banche che sul risparmio gestito. Sì. E dove invece andrebbe a scommettere di più? Cioè, non so, voglio dire, uno può anche dire che se ripartono i consumi interni in questo paese, o ripartono un po' di più, magari uno cambia anche forma di investimento. Mi dica comunque. Nei settori industriali secondo me andranno tendenzialmente bene tutti, cioè questo treno europeo che ci trascina un po' tutti è chiaro che li porta avanti. Certamente continueranno a beneficiarne le società esportatrici, per cui industriali che esportano, diversificati territorialmente. Non starei sugli immobiliari assolutamente, perché non vedo, malgrado quello che dicono sui mutui o su altre cose, grandi spunti sul settore immobiliare, che anche lì sarà volatile, ci saranno fiammate ma ci saranno anche crolli. Così come sul cemento non vedo grandi sorprese, per cui starei sugli industriali puri e in particolare sulle aziende esportatrici. Industriali puri e aziende esportatrici, e con che percentuale? Cioè, fatte 100 gli euro che vorrei mettere in investire, lei quanta parte metterebbe in azioni, quanta parte in obbligazioni e titoli di Stato, anche obbligazioni bancarie subordinate? Nessuno qua si aspetta comunque un fallimento di una banca italiana, Mirti, nemmeno lei? No, neanche io. Bene. Al di là di quello che sarà poi l'esito di Popolare Vicenza e Veneto, ma quello è un danno agli azionisti, per cui parliamo di fallimenti veri e propri. Tamburi, lei non se lo aspetta un fallimento bancario, cioè una nuova tensione? Assolutamente, non me l'aspettavo prima, io ho anche detto che la Grecia sarebbe stato un baubau che poi sarebbe rientrato, per cui insomma non credo che il mercato attuale si possa permettere nessun fallimento di nessuno. La lezione Lehman l'abbiamo imparata tutti, se pensiamo alle parole di Draghi, della Yellen o di altri, vediamo che sono, come abbiamo detto prima, più attenti a non dare timori che non pronti a dare ricette forti, per cui non vedo altre cose. Riguardo allo split degli investimenti, io metterei il 100% di soldi sulle azioni degli industriali, anche perché le obbligazioni abbiamo visto che deludono ormai da troppo tempo, e con i tassi a questo livello le obbligazioni, che dal punto di vista delle oscillazioni le subiscono in maniera forte, dal punto di vista della ripresa dei corsi è escluso, perché se i tassi crescono non ci saranno, per cui io credo che noi siamo abituati a scommesse forti sui singoli titoli, sui singoli settori eccetera, per cui io sono, diciamo, condizionato dal fatto che ragiono con la testa con cui lavoro ogni giorno, però io credo che oggi un investitore intelligente debba avere il coraggio di mettere tanti soldi in pochissime cose, e tra queste poche cose metterei titoli azionari europei di aziende industriali. Era prevedibile, perché Giovanni Tamburi viene spesso, non abbastanza spesso secondo lui, durante l'anno, e comunque i nostri esperti parlano sempre di previsioni economiche, borsistiche, finanziarie, geopolitiche. Era prevedibile che la maggior parte dei messaggi, ma non direi un 50-50, siano anche di carattere astrologico. Allora faccio il resoconto di quello che ha detto Grazia Mirti, così vediamo se ho capito bene anch'io. Il 2016, però non potete darmi una base più seria, perché leggere con Cinderella sotto il 2016 una cosa di quelle nostre, tum tum tum, che serio, un top 30, cioè. Allora, il 2016, fattore particolare viene, è dato dal movimento anomalo di Marte. Marte da gennaio fino ad agosto si muove solo in Scorpione e Sagittario. Sempre Sagittario. Conseguenze, il petrolio scenderà ancora e vi sarà un freno alle borse. Scenari internazionali, tra aprile e maggio e in estate saranno i periodi più delicati. La crisi greca si riproporrà, ahimè. E anche dell'euro a ottobre, questa andiamo a verificarla, Mirte. L'anno finirà con Marte in pesci e con nuove tensioni di tipo religioso, ahimè, speriamo che si sbagli. Tra ottobre e novembre Marte in Capricorno ed è lo stesso scenario delle due torri. Beh, insomma, anche qui spero veramente che sia solo una coincidenza astrale, perché non posso augurarmi nulla di neanche vagamente simile a quello che capitò l'11 settembre. E adesso però passiamo anche ai singoli nomi, ai singoli paesi. Allora, Renzi, Capricorno, tiene ma sarà in difficoltà nel 2016. Renzi rappresenterà per la Merkel una spina nel fianco, anche più di quanto abbia già fatto nelle ultime settimane. Merkel infatti è un cancro, un inizio anno positivo ma difficoltà in autunno. Cameron e Putin sono bilancia, me lo sono segnato. In bilancia c'è Lilith. Cos'è Lilith? Lilith è il secondo fuoco dell'ellisse lunare. E quindi? Praticamente è un punto, e se la Luna nel suo movimento compie un movimento ellittico, e dato che l'ellisse ha due fuochi, uno è la Terra e l'altro noi lo chiamiamo. Ma è buono o cattivo che in bilancia? Cattivello. Cattivello, ok. Putin non avrà un periodo facile, anche Cameron sarà in difficoltà. La Spagna è in Sagittario, abbiamo capito che questo Sagittario non è un gran anno. Non è una fase facile. Rajoy e Ariete anche lui in difficoltà. In Francia, Olanda e Leone non è particolarmente disturbato, avrà qualche difficoltà a fine anno. Erdogan, pesci, resterà al potere, resterà in sella. Il periodo più delicato sarà a fine del 2016. La Turchia ha forti pianeti in Scorpione e in Toro. Tamburi, queste sono le vostre previsioni. In 30 secondi mi dica che cosa la preoccupa di più, che cosa potrebbe andare storto. Cioè, se fra un anno ci sentiamo, mi dite, guardi, obiettivamente purtroppo è successo questo. La volatilità, secondo me sarà un anno ancora più volatile dei precedenti, per cui dovremo abituarci a sbalzi molto molto molto forti, come accennavo prima, come settimana scorsa. Questo sarà il grande pericolo dell'anno, non vedo altri pericoli grossi. Abbiamo ma visto neanche di comunque... carattere geopolitico? Ma no, infatti stavo dicendo proprio questo, abbiamo visto che comunque i mercati hanno un loro cinismo o una loro superficialità o un loro trend a prescindere. La questione Parigi è durata 48 ore, credo che i mercati vadano al di là di queste cose qui. Abbiamo visto la Grecia, abbiamo visto, ma le stesse due torri di cui si parlava prima, se uno le vede su un grafico è veramente un punticino su un trend di tutt'altra direzione, per cui io non credo che ci siano grossi sbalzi, o perlomeno non credo che gli ascoltatori si debbano preoccupare troppo di queste cose qua. Se parliamo solo di borsa, chiaramente non dal punto di vista geopolitico, di quello che è stato nel nostro modo di vivere, da allora cambiato forse per sempre. Grazie a Mirti, ma veramente un anno così brutto per il Sagittario? No, lo chiedo perché appunto Sagittario è chi cavolo è, adesso lo becco Sagittario. Ma perché mi vuole fare dire tutti i costi Spagna, che è un anno brutto? No, non voglio sapere non se è un anno brutto o no. No, ma non lo sarà brutto, sarà un anno di costruttivo, nel senso che elimineremo alcune cose che non dobbiamo più fare, quindi secondo me sarà un anno liberatorio, questo sì. Oh, vabbè, mi sento un po' meglio, grazie, e buon anno e buon Natale, grazie come sempre a Giovanni Tamburi, ormai siete una coppia fissa Tamburi. Bisognerà che ci conosciamo. Esatto, sì, ma la porti anche nel suo fondo di investimento. Guardi che può avere un cotè anche di valore aggiunto. Cioè, ormai mi ha chiamato collega. Tra l'altro, ricordiamo una cosa: il 4 gennaio si quota la Ferrari in Italia, per cui è un evento. Come va la quotazione della Ferrari? Mirti, 4 gennaio, sono fuori tempo massimo. Ma non c'è assolutamente nessun dubbio che andrà magnificamente bene. Ok, anche per il 4 gennaio chi va a controllare. Grazie a Giovanni Tamburi, presidente mi sono legato da Tamburi Investment Partners, grazie anche a Grazia Mirti, la nostra storica. Buon anno e buon Natale. E da Sebastiano è veramente tutto, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche in questa puntata in redazione e poi in diretta. Un augurio di un buon Natale. Focus Economia torna chiaramente lunedì prossimo. Audiogrammi speciale Natale. Sei Alex Larson? Dipende da chi me lo chiede. Ti ho mandato una lettera. Chi mi conosce non mi scrive, perché non so leggere. Per cui non posso conoscere uno che lo fa. You are a cinema, I grandi classici del cinema e della letteratura raccontati alla radio. Il signor Davis ha detto che dare un'istruzione a una donna è utile quanto dare un'istruzione a una gatta. Il 24 e il 31 dicembre, tornate bambini. Vivrete le emozioni di due grandi storie, come mai le avete ascoltate. Deve tornare libero, è la sua magia. Vi aspettiamo il 24 e il 31 dicembre alle 22 su Radio 24. Audiogrammi, in radio come al cinema.